Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, buona giornata. Allora, da gennaio sembra che mandare SMS costerà un po' di meno rispetto ad ora, al massimo 13,2 centesimi. Lo ha stabilito nei giorni scorsi l'autorità per le comunicazioni, che ha adottato questo tetto previsto da un tetto comunitario, 11 centesimi più IVA. Un risultato che è stato il frutto intanto di un'indagine conoscitiva che era stata condotta dall'autorità delle comunicazioni e dall'antitrust qualche mese fa, che aveva stabilito che gli SMS in Italia costassero troppo, in media 15 centesimi. Di conseguenza si era arrivati ad una trattativa che è stata poi lunga ed intensa fra l'autorità e le imprese delle telecomunicazioni e gli operatori di telefonia mobile. Ora si è fissato questo tetto massimo, non è un provvedimento d'imperio, non è una direttiva, è un invito agli operatori del settore, un tetto massimo oltre il quale non si dovrebbe andare, ma al di sotto del quale si potrebbe invece andare. Insomma, dipenderà ovviamente dalle offerte commerciali che poi gli operatori vorranno praticare. È una questione che interessa molti di noi, perché gli italiani sono degli utilizzatori, siamo anzi degli utilizzatori spregiudicati degli short message telefonici. Quasi il 50% degli italiani manda qualcosa come 164 milioni di SMS al giorno, quindi potete capire che genere di fatturato determina tutto questo alle imprese di settore. E però gli interrogativi sulla questione rimangono aperti, perché le associazioni dei consumatori ritengono che, nonostante sia stato fissato questo tetto, sia ancora un tetto troppo alto, che si paghi ancora troppo, che le compagnie, anche quelle che propongono delle opzioni tariffarie migliori, comunque tenderanno, in virtù di questo provvedimento, ad adeguarsi al massimo, e che in ogni caso appunto far pagare meno gli SMS, l'invito a far pagare meno gli SMS costringerà le compagnie ad aumentare le tariffe degli altri servizi. Insomma, le questioni aperte sono molte, e allora noi stamattina vogliamo affrontare questo argomento con due interlocutori, naturalmente, che risponderanno anche volentieri, come sempre, alle vostre domande all'800 24 00 24 o alle 349 238 6666. Davide Gallino, funzionario della Direzione Analisi dei Mercati, Concorrenza e Assetti dell'Agicom, l'autorità appunto garante delle comunicazioni. Dottor Gallino, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Peraltro, ultimamente stiamo scomodando veramente spesso l'autorità delle comunicazioni, ci fa piacere perché sono veramente molto, molto disponibili e molto collaborativi. E poi l'avvocato Francesco Luongo, segretario nazionale del Movimento Difesa del Cittadino, e si occupa moltissimo di settore telecomunicazioni nell'ambito dell'attività dell'Associazione dei Consumatori, ci raggiungerà fra qualche istante. I numeri per intervenire ve li ho ricordati, adesso andiamo agli altri numeri, a quelli della borsa. Oggi è una giornata che aveva tutte le caratteristiche di essere interlocutoria, cioè praticamente priva di spunti fino a qualche minuto fa. Adesso invece c'è una tendenza negativa un po' più netta, ma insomma non è che i cali siano dirompenti rispetto invece ai rialzi molto importanti che sono stati registrati ieri dal mercato europeo. Mercato europeo che, come quello americano, ha ormai lasciato completamente da parte tutte le preoccupazioni legate al dissesto finanziario di Dubai World, questione arginata, isolata, come già si diceva qualche giorno fa. Il mercato va avanti per la sua strada, quello americano e quello europeo. Il Wall Street in particolar modo ieri sera ha toccato sul Dow Jones i 1500 punti che non vedeva dallo scorso ottobre. Quindi si è ricominciato ad acquistare appunto a piene mani su tutti i settori dell'equity, appunto del mercato azionario. Stessa cosa in Europa. Oggi si scende leggermente: Parigi meno 0,16, Francoforte meno 0,30, Londra meno 0,16, Milano meno 0,39%, ma del resto Milano ieri aveva messo a segno il rialzo più consistente in tutta Europa. Nuova giornata di record, tanto per cambiare, sul versante delle materie prime. In Asia l'oro ha toccato i 1215,70 dollari l'oncia, e questo è una tendenza scatenata, lo sappiamo, lo stiamo dicendo tutti i giorni, dal dollaro che continua a scendere sull'euro. Oggi è ripiombato a 1,51, adesso è 1,5091 il rapporto di cambio. Il petrolio è a 78 dollari. E andiamo a vedere cosa succede a Milano. I migliori titoli: Snam più 1,62, Mondadori più 1,29%, Luxottica più 1,25, Prismian più 0,8, Tenaris più 0,7%. Era una buona giornata anche per il settore automobilistico, dopo i dati sulle matricolazioni che sono stati diffusi ieri sera per Fiat. Il mese di novembre è stato eccezionale, ovviamente per effetto degli incentivi, ma il mercato oggi preferisce vendere i titoli del lingotto, che sono in calo dell'1,7%. I peggiori però sono Impregilo, -2,38%, Popolare di Milano, -2%, il Banco Popolare, -2%, Fondiaria, -2%, Bulgari anche oggi in calo di 2 punti percentuali, Buzzi, -1,59%, CIR, -1,59%, Fiat ovviamente porta giù anche Exor. Telecom oggi consiglio di amministrazione, fra i temi all'ordine del giorno il dossier Argentina, e questi sono i temi principali della seduta sul mercato, ricordandovi che oggi nei dati economici americani abbiamo anche la pubblicazione del Beige Book, il rapporto periodico della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, che ci darà un po' il punto della situazione sullo stato dell'economia appunto statunitense. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi e parliamo di questa abitudine che hanno molti italiani, quella di mandare SMS nel corso di tutta la giornata. Ma quanto ci costa questa abitudine e soprattutto quanto potrà costarci da gennaio? Che gli SMS in Italia costassero troppo era sotto gli occhi di tutti da diverso tempo. Ora però sembra essere arrivata la soluzione. Da gennaio infatti inviare un messaggio telefonico costerà 13,2 centesimi, in linea dunque con quanto previsto dal regolamento comunitario europeo. È quanto ha stabilito la scorsa settimana l'autorità garante delle comunicazioni, dopo un intenso confronto con gli operatori telefonici. Il tetto agli SMS non sarà però l'unica novità in arrivo. Con l'anno nuovo, infatti, chi lo vorrà potrà richiedere di pagare in base agli effettivi secondi di conversazione, abbandonando di fatto l'onerosa tariffazione a scatti, cioè l'addebito anticipato a blocchi di 30 secondi o di un minuto. L'intervento dell'Agicom, se da un lato consentirà comunque di abbattere i costi nel consumo telefonico, dall'altro non sembra aver soddisfatto in pieno le associazioni dei consumatori, che per gli SMS continuano a lamentare uno scarto ampio con la media europea. 800 24 00 24, numero verde che come ascoltatori ovviamente vi dà l'opportunità di interagire con noi, di interagire con i nostri ospiti, ma ci potete anche scrivere al 349 238 6666. Davide Gallino, Agicom, funzionario della Direzione Analisi dei Mercati, Concorrenza e Assetti. Allora, direi di fare anche un po' di cronistoria rispetto a questa moral suasion, perché in maniera diversa non si può chiamare, che avete condotto nei confronti degli operatori delle telecomunicazioni a cui siete giunti appunto la settimana scorsa. Quindi un invito a ridurre il tetto massimo del costo degli SMS, ma è come dire una decisione alla quale siete arrivati dopo mesi intanto di trattativa con gli operatori, come dicevamo prima, ma anche dopo settimane di indagine in questo ambito che da tempo stuzzicava un po' la vostra attenzione, perché da tempo si diceva che noi praticassimo i costi più alti d'Europa. Allora, come ci siamo arrivati a individuare questo tetto, dottor Gallino? Sì, direi facciamo un attimo di ordine le cose che lei ha esposto, così cerchiamo di aiutare un po' gli ascoltatori a vedere dove siamo. E, nel settembre 2008 l'autorità aveva avviato questa indagine conoscitiva, come lei ricordava, congiuntamente con l'antitrust, perché con gli SMS e della trasmissione dati in mobilità, cioè praticamente l'uso di internet via telefonino, è un mercato molto importante. Ricordava lei alcune cifre, solo nel 2008 gli SMS in Italia valgono più di 2 miliardi di euro e il mercato dati in mobilità vale un altro miliardo e due di euro, un altro miliardo di euro. E, quindi le due autorità volevano approfondire ulteriormente il funzionamento di un mercato che è peraltro molto maturo e quindi offre ai consumatori molte scelte. Questo andrebbe chiarito, perché l'intervento che viene proposto adesso non è ancora un intervento definitivo, ma dispiegherà i suoi effetti dalla fine di gennaio, i primi giorni di febbraio. Aggredisce principalmente i piani base, cioè quello che l'utente non avveduto, gli utenti forse meno giovani, gli utenti meno interessati all'uso massivo di SMS. E anche alla ricerca di nuove offerte e promozioni commerciali, perché esatto, queste appunto ce ne sono, ma magari non tutti esatto hanno le condizioni per poterle intercettare sul mercato. Ma che appunto nell'indagine una cosa che abbiamo già visto è che oltre il 75% dei messaggi inviati viene inviato utilizzando delle opzioni. Tuttavia a noi interessava anche l'altro 25% di messaggi inviati, cioè quelli mandati a prezzo pieno, e ancora più ci interessava capire, quando abbiamo avviato l'indagine nel settembre 2008, perché circa il 50% degli italiani non mandano sms. C'è sicuramente un fattore anagrafico di mezzo, ma ci poteva essere problemi. Uno dei problemi è quello che metteva in evidenza lei, cioè che il prezzo di base degli sms, quello che appunto l'utente non avveduto, non esperto, l'utente che ha comunque una capacità di spesa più alta e quindi in definitiva è poco attento a questo tipo di spesa, magari perché invia pochi sms, il prezzo, dicevo, è di 15 eurocent. E allora da lì siamo partiti e congiuntamente con l'antitrust avevamo raggiunto una serie di conclusioni nell'indagine che è stata pubblicata a maggio. E tra queste conclusioni segnalavamo una preoccupazione per questo tetto massimo, che avrebbe finito con l'essere superiore al tetto indicato dal regolamento europeo sul roaming, e avevamo anche altri tipi di preoccupazione che non riguardavano soltanto il prezzo di sms, ma anche la trasparenza tariffaria del traffico dati, che ci sembrava migliorabile. Questo è un tema che possiamo affrontare tra un momento. Per rimanere sugli sms, come dicevo, il problema è sui piani di base, per cui che cosa propone l'autorità adesso con questo testo che andrà in consultazione pubblica? Quindi non è una decisione definitiva, ma ovviamente l'interazione con gli operatori che ha ricordato lei ha già portato dei risultati, perché appunto usciremo con una consultazione pubblica, ma la consultazione pubblica affronterà principalmente i temi della trasparenza tariffaria. Per quanto riguarda il prezzo di SMS, da febbraio, come ricordavate, gli operatori che diciamo, è importante ricordare che non tutti gli operatori lo facevano, offriranno tutti un piano senza scatto alla risposta e per la voce, e con un prezzo di SMS che non supererà i 13 centesimi. Mm-hmm. Si terrà quindi al di sotto del limite indicato dalla legislazione europea, che è di 11 euro cent più IVA al 20%, quindi sarebbe 13,2. Invito che comunque potrà permettere alle compagnie di far convivere anche accanto a questo piano senza scatto, come diceva lei alla risposta, anche offerte più vantaggiose. Certo, è assolutamente importante che tutti gli ascoltatori, insomma, che capiscano che gli sconti attuali, i piani, le opzioni tariffarie che uno si è scelto non cambiano, è soltanto, sono soltanto strumenti che vengono messi a disposizione in più in quello che è un mercato maturo e ritenuto competitivo. Bisogna ricordare che se facciamo un raffronto internazionale, mi spiace, diciamo, per qualcuno che la pensa diversamente, però non abbiamo riscontri precisi che indicano che gli sms italiani non sono certi più cari. Poi se andiamo a vedere i dati dell'indagine conoscitiva che sono pubblicati su internet, sì, quello è vero. Io infatti ho altri dati che effettivamente mettono in luce come in altri paesi siamo su livelli assolutamente più alti. In Lituania per esempio si pagano 29 centesimi, in Austria 25, in Olanda 22, in Germania, la virtuosissima Germania, ne fa pagare 19, il Portogallo 18, e solo la Francia è inferiore a noi, perché qui abbiamo invece una tariffa a 12 centesimi. Ribadiamo, però, si parla di piani base. Dottor Gallino, ci dobbiamo fermare adesso perché abbiamo il meteo, un po' di pubblicità, adesso stiamo anche recuperando Luongo, abbiamo qualche problema con il telefono, ma siccome avete parlato anche di questa consultazione pubblica, di questo fatto che questo testo andrà in consultazione pubblica, le associazioni dei consumatori si lamentano che non sono state interpellate su un tema che invece a loro interessa molto, allora cercheremo di capire quali dubbi sollevano intorno a tutto l'impianto di questa iniziativa. Eccoci di nuovo a Salva Danaio. Questa mattina stiamo affrontando un tema che per qualcuno dice, insomma, ma il mondo sta andando a rotoli e voi parlate degli sms. E lo so che magari per qualcuno può risultare, non dico offensivo, trattare un argomento che può sembrare anche leggero. In realtà siamo degli accaniti consumatori di questo servizio. Magari qualcuno lo utilizza ovviamente per mandare messaggi, comunicazioni agli amici, cioè invece ne fa un utilizzo anche molto intenso per ragioni di lavoro. Insomma, un mercato che vale 2 miliardi di euro, nel nostro paese non vedo perché non dovremmo parlarne, soprattutto quando è un servizio che ci costa tanto rispetto alle indagini che vengono condotte e possiamo intercettare ed individuare le strade anche per risparmiare su questo. Per cui stamattina, alla luce di recenti monitoraggi effettuati dall'autorità garante delle comunicazioni e dall'antitrust, che hanno portato anche a fissare un tetto massimo di prezzo per i piani tariffari di base degli sms, quindi 13,2 centesimi, ci piace insomma che voi lo sappiate. Tutto questo naturalmente non comporta comporta anche l'eventualità che possiate stabilire con il vostro operatore di fiducia dei piani tariffari ancora più vantaggiosi, perché ce ne sono. Qua stiamo parlando appunto dei piani base. Questa pronuncia dell'autorità garante delle comunicazioni, che entrerà a regime come invito agli operatori a partire da gennaio, dovrebbe appunto portare ad un risparmio. 800 24 00 24, per le domande degli ascoltatori ce ne sono già pronte, e ci ha raggiunto anche l'avvocato Francesco Luongo. Non lo abbiamo ancora, non capisco cosa stia succedendo al telefono stamattina, probabilmente dovremo cominciare a comunicare con lui con gli SMS. Allora, dottor Gallino dell'autorità delle comunicazioni, torno a lei. Stavo anche così un po' spulciando fra gli SMS al nostro numero che ci arrivano da parte degli ascoltatori, e tutti continuano a dire appunto che questi 13,2 centesimi sembrano effettivamente una cifra eccessiva. Non ho mai pagato un SMS più di 10 centesimi, ci rileva appunto un ascoltatore. Ho vissuto nel Regno Unito, ho vissuto in Francia. Effettivamente questo tetto massimo è un livello previsto da un tetto comunitario, però ricordiamo appunto qualcosa di massimo al di sotto del quale si può sempre andare. Sì, assolutamente, anche perché appunto, ripeto, sto ai dati dell'indagine cognitiva, ma è un'esperienza che vediamo ogni giorno, cioè quello che effettivamente chi manda SMS spende ogni giorno è molto meno. Qui parliamo dei piani di base che sono tipicamente utilizzati da gente che li utilizza poco. Volevo ritornare un attimo sull'altro aspetto, forse sì, se possibile, della nostra iniziativa, cioè quella della trasparenza tariffaria del traffico dati, se possiamo... No, sì, certo, no, perché poi ci diceva lei insomma che praticamente tutta un'iniziativa complessiva che andrà in consultazione pubblica, perché poi sì, qua voglio coinvolgere l'Associazione dei Consumatori, sì. Esatto. Sì, fermo stando che abbiamo un dialogo continuo con l'Associazione dei Consumatori, che fanno un lavoro fondamentale sia perché per la loro presenza sul territorio, sia per diciamo, il modo in cui rappresentano le questioni. Però ci ho detto, si fa la consultazione pubblica in modo che il maggior numero di stakeholder possibile, di persone interessate possibili, possa partecipare. Dicevo, l'altra parte su cui era forse interessante richiamare un attimo l'attenzione dei consumatori è la proposta che faremo di introdurre una soglia di consumo, cioè un avviso quando l'utente consuma una parte del suo credito. Sto parlando del traffico dati, per cui il traffico, l'uso del telefonino per accedere a internet, alla posta elettronica e via discorrendo. Noi suggeriremo di avere un avviso obbligatorio inviato al cliente quando il credito raggiunto sia circa l'80% del credito disponibile, in modo che si evitino fenomeni cosiddetti di bill shock, che sono importanti. Il conto salatissimo, in sostanza. Il conto salatissimo o altre, diciamo, abbiamo visto dal nostro contact center tramite il quale l'autorità riceve le segnalazioni dei cittadini, dei consumatori, vediamo che appunto per esempio negli ultimi mesi di 140 segnalazioni ricevute, 139 riguardano la telefonia mobile, e ripartite in buona misura tra voce e traffico dati. Relativamente al traffico dati, appunto, la proposta è di avere un plafond massimo. Questo plafond potrebbe essere fissato o proporzionalmente al piano già utilizzato dal cliente, oppure fissato come una delle soglie possibili, potrebbe essere quei 50 euro al mese. Facciamo un esempio. Sì. Io spendo 30 euro al mese per il mio piano dati. Quando ho raggiunto 24 euro di consumo ricevo un avviso, lo ricevo sul computer se utilizzo una chiavetta, lo ricevo sul telefonino tramite SMS se utilizzo il telefonino, e una volta ricevuto questo avviso, se io non ho confermato per scritto che voglio superare la mia soglia di consumo, l'operatore dovrebbe interrompere la fatturazione una volta raggiunto i 30 euro mensili. Questa tutto questo quando dovrebbe partire, dottor Gallino? Lo mettiamo in consultazione, potrebbe partire entro 90 giorni, entro 3 mesi dall'adozione della delibera. Questo insomma tutta dimostrazione del fatto, un aspetto che abbiamo toccato anche in altre trasmissioni, che è sicuramente un settore all'interno del quale ci si fa una concorrenza sfrenata fra operatori, a volte pur a costo di abbattere il muro della pratica commerciale corretta, e che però va monitorato sempre molto attentamente. Allora, avvocato Luongo, ce l'abbiamo fatta a recuperarla? Sì, certo. Stavamo immaginando di scriverle un SMS per raggiungerla, così ci avrebbe risposto. Beh, sarebbe stato molto costoso, credo, alla luce di quanto è stato detto. Allora, ci dica un po' qual è la visione delle associazioni dei consumatori rispetto a tutto questo, perché so che voi o almeno molte di voi non sono state contente, perché è, come dire, è un intervento che non è d'imperio, è un invito fatto agli operatori, non è comunque una cosa buona in un mercato che dovrebbe essere estremamente concorrenziale, quindi dover portare già delle tariffe concorrenziali tra i consumatori. So che siete un po' arrabbiati perché non vi è piaciuto il fatto che non siate stati convocati per l'attivazione di questo tavolo di consultazione pubblica che ci indicava il dottor Gallino. Insomma, quali sono i problemi che avete messo a tappeto? Quindi primo problema assolutamente di metodo, convocare solo l'ASPEL, che è l'associazione, sì, che raggruppa gli operatori, e gli operatori senza convocare le associazioni su quello che è un provvedimento di cui si è un po' diciamo sopravvalutato la portata. È un invio, una moral suasion, è un invito fatto agli operatori, ma per il quale noi non siamo assolutamente contenti, perché A, non siamo stati convocati, B, andiamo in questo modo, l'autorità va a legittimare uno stato di cose che non ci piaceva, che è assurdo e che rimane assurdo anche dopo questa iniziativa, perché non è neppure un provvedimento, un'iniziativa che diciamo conferma il costo degli SMS ben al di sopra di quella che è la media nell'Unione Europea, che è di 7,5 centesimi, e rischia addirittura di creare danno andando a aumentare quella che è la giungla tariffaria, perché sappiamo benissimo che le compagnie telefoniche andranno adesso a proporre altri piani tariffari che prevedano il limite già previsto peraltro dall'Unione Europea per quanto riguarda gli SMS transfrontalieri di 13 centesimi, virgola 2, andando poi a pescare sicuramente qualche altro aumento nell'ambito del piano tariffario complessivo, quindi i consumatori rischiano addirittura di perderci. Abbiamo fatto solo i conti della serva, non siamo soddisfatti, ci dispiace non essere stati consultati prima, la consultazione ex post su argomenti peraltro importanti come appunto le misure per contrastare i bill shock, soprattutto nell'ambito del servizio, la soglia minima di consumo, sì, non può che farci piacere, però ripeto, siamo assolutamente deluse sia nel metodo che poi nel merito. Benissimo. Questa, ripeto, la presa di posizione è sicuramente molto chiara. Adesso noi però l'ultima parte di Salvadanaio, dopo i suggerimenti perché in viaggio, vorremmo spenderla a favore dei nostri consumatori, che adesso ne sentirò almeno un paio, per orientarli anche nella miglior scelta allora commerciale, alla luce di tutte queste iniziative che si stanno prendendo, che naturalmente hanno anche i loro tempi poi per poter trovare concretezza nel mercato. I costi degli SMS, cosa succederà da gennaio, quanto ci costano ora, e vedo anche qualche ascoltatore che non ha forse ben compreso le specifiche che abbiamo dato nella prima parte della trasmissione. Allora un ascoltatore dice: ma insomma, ma non avete mai sentito parlare di Wind? Mando gli SMS a 6 centesimi l'uno, non vivo sulla luna ma a Milano. Lo abbiamo detto con l'autorità garante, con Davide Gallino, ci sono tante offerte commerciali molto vantaggiose che sono sicuramente molto distanti da questo tetto massimo fissato dall'autorità come invito agli operatori a non andare oltre questo costo, è un tetto comunitario. Detto questo, si tratta di un tetto che riguarda i piani tariffari di base, quello che praticamente potrebbe sottoscrivere mia mamma, che non ha la minima coscienza di quella che è l'offerta commerciale sul mercato, per cui andando a comprarsi un telefonino nuovo e una scheda nuova, magari l'operatore gli appioppa ovviamente appunto il piano tariffario di base che contempla il tetto massimo del costo degli SMS. Probabilmente lei appunto ha avuto l'opportunità di sottoscrivere questa offerta perché era un buon cliente, perché la conosceva. E Gallino, sto dicendo delle cose senza senso, l'autorità delle comunicazioni, perché qua forse bisogna precisare questo aspetto. È assolutamente corretto, però i consumatori hanno ragione a preoccuparsi, di comprendere bene quello che stiamo facendo. E quello che diceva lei è correttissimo, i vecchi piani non sono toccati, sappiamo benissimo, l'abbiamo detto più volte, che ci sono persone che inviano SMS a 1 euro cent perché utilizzano le opzioni tariffarie, però volevamo incidere su quella parte di consumatori, circa 38% di utilizzatori che sì, che magari l'SMS non lo usa mai, ma magari, che ne so, un figlio un giorno prende il suo telefono, ne manda 50 perché vuole fare uno scherzo al papà, e magari gli finisce tutta la scheda. Può essere l'invito a una festa di compleanno, ma in generale appunto ci interessava l'utente sporadico che, come sottolineava lei, si trova a utilizzare il piano base, allora volevamo una tariffazione che fosse più in linea. Volevo anche, diciamo, gli aspetti procedurali interessano poco, però volevo ricordare che nell'ambito dell'indagine conoscitiva che ha preceduto questa iniziativa, che sostanzialmente è un po' la madre di questa iniziativa che andiamo ad adottare, e le associazioni dei consumatori sono state udite più volte, proprio perché diamo valore al loro input, al loro contributo. Si sono un po' offese per questo metodo utilizzato in quest'ultima circostanza. Se l'autorità garante correrà sicuramente ai ripari. Sentiamo qualche ascoltatore, va. Allora, cominciamo con Camillo da Pescara. Perché era interessato alla questione della trasparenza tariffaria, la soglia di consumo? No, forse su un altro aspetto, sui secondi di conversazione, vero? Sì. Io desideravo dire, innanzitutto, noi mandiamo SMS per risparmiare sulla telefonata. E infatti. Che diciamo un SMS per me può essere 10-20 secondi di comunicazione, no? E desideravo sapere quindi la differenza di costo, se veramente a fine gennaio più o meno verrà introdotta questa cosa del costo dei secondi effettivi, quale può essere la differenza tra il costo dell'SMS sui 13 centesimi e della chiamata. E poi desideravo sapere se è possibile che un giorno, il secondo, ci sia praticamente da parte degli operatori una decisione sul costo di questo secondo di comunicazione, se quindi un giorno può essere cambiato così o come vogliono loro unilateralmente, come sì, qualche volta poi, sì. E l'ultima cosa, siccome qualche settimana fa avete fatto anche una trasmissione su un sito che informava sulle tariffe, SOS tariffe, Camillo, se può ricordare quel SOS sito. Tariffe, semplicissimo, tariffe. Tra l'altro un impianto messo in piedi da 3 giovanissimi imprenditori molto in gamba, e quindi magari, visto che vi ha suscitato anche così tanto interesse, magari li reinvitiamo. Siccome il tema era lo stesso, volevo sentire anche Giulio da Bari, così lascio poi il dottor Gallino rispondere su tutto. Giulio? Sì, io vorrei sapere, a parte il discorso SMS, cioè per la conversazione, possedendo una scheda con scatto alla risposta e non a secondi ma a blocchi di 30 secondi, per cambiare piano tariffario attualmente devo sostenere delle spese. Da gennaio cambia qualcosa, nel senso che mi diviene automaticamente un diritto a cambiare piano senza spese, e se è così cosa bisogna fare? Giulio, la ringrazio. Allora, dottor Gallino, sono problemi che vi siete già posti come autorità delle comunicazioni? Intanto il tema dei secondi di conversazione ho visto che ha sollevato molto interesse. Assolutamente sì, sono domande assolutamente pertinenti. Comincerei dal signor Giulio di Bari. Lo scatto alla risposta e il transito da un piano all'altro, noi proporremo che sia senza oneri per il cliente, perché ovviamente quello che succederà, ripeto, succederà già, perché su questo gli operatori hanno convenuto, sarà sia la disponibilità di piani tariffari con SMS sotto i 13 euro cent, sia la disponibilità di piani tariffari con senza scatto alla risposta. E noi proponiamo, proprio per venire incontro all'esigenza che sottolineava l'ascoltatore, che il passaggio ai nuovi piani tariffari sia senza oneri per i consumatori. Poi Camillo, sì, lui dice, insomma, noi utilizziamo l'SMS per risparmiare sulla chiamata, allora il passaggio ad un piano tariffario che preveda il versamento appunto di una tariffa secondo determinati secondi di conversazione, secondo lei, insomma, spanne quanto potrà far risparmiare, adesso sintetizzando al massimo l'osservazione di Camillo? Sì. È impossibile rispondere, perché dipende dai volumi di questi SMS. Se io mando, per dire, le banche che avvisano i loro clienti dei prelievi mandano 10-20 mila SMS al giorno, dipende dal volume di traffico, penso che qui si ipotizzino volumi di traffico molto inferiori. Però comunque ne sentiremo ancora parlare, perché io non credo che questo sarà una proposta, un invito che farete agli operatori, non sarà niente di definito entro qualche mese, credo. No, allora, quello che succederà da febbraio, ci aspettiamo che succeda, perché fa parte di questi impegni, questa adesione che diciamo delle indicazioni che aveva ipotizzato l'autorità, si avvererà da febbraio. Per quanto riguarda il traffico dati e quei tetti di cui dicevamo prima, eccetera, parliamo di tempi leggermente più lunghi, ma appunto di una novantina di giorni dalla delibera per i nuovi piani tariffari, di 180 giorni per i piani tariffari esistenti. Benissimo. Devo concludere con l'avvocato Luongo, perché ci ha raggiunto un po' tardi, però gli faccio fare la conclusione magari di questa trasmissione. Allora, a prescindere dal fatto che non siete stati convocati nell'ultima occasione utile per voi, comunque sono sicura che adesso ricominceranno a sentirvi come associazione dei consumatori. Insomma, rispetto a tutto quello che abbiamo detto questa mattina, avvocato Luongo, quali osservazioni porterete al tavolo con la GCOM? Guardi, con l'Authority stiamo svolgendo da un paio d'anni un ottimo lavoro, soprattutto con la direzione tutela consumatori. Sì. Per quanto quanto riguarda l'aspetto dei costi, abbiamo forti perplessità, anche perché le compagnie hanno aderito ad un invito cui non potevano insomma dire di no, non lo faremo, insomma, poi bisognerà vedere. Il problema, quanti ci metteranno, appunto, l'ha accennato lei, per quanto riguarda poi quella che sarà la pratica attuazione. In particolare abbiamo seri dubbi che il cambio tariffario sarà senza oneri, l'autorità non ha nessun potere su quest'altra materia tariffaria, ovviamente si tratterà anche in questo caso di una moral suasion, prevediamo ovviamente ricorsi al TAR nel momento in cui l'autorità. Avvocato Longo, niente, oggi proprio non ce la facciamo con il telefono, comunque in sostanza abbiamo capito quali sono le preoccupazioni delle associazioni dei consumatori, che comunque l'invito dell'autorità garante verrà raccolto interpretando insomma liberamente questo dettame, che è sostanzialmente un invito. Dottor Gallino, allora in 30 secondi lascio concludere lei, perché è proprio paradossale, una trasmissione sulle telecomunicazioni stamattina non riusciamo a stare collegati con l'avvocato. Come monitorerete sul comportamento degli operatori da qui ai prossimi mesi? Noi l'ho premesso che non monitoriamo tutti i giorni, perché i nostri uffici non fanno altro, lo fa l'ufficio di cui sono responsabile, lo fanno le direzioni tutte le consumatori, per quanto, ognuno per quanto riguarda le proprie competenze. E, diciamo, vorrei concludere dicendo che questo mercato di SMS dei dati è un mercato maturo, competitivo, ci sono, come sottolineava quell'ascoltatore da Milano, molti piani tariffari e molte opportunità per chi utilizza intensamente il telefono in queste varie modalità. Abbiamo cercato di, cioè, proponiamo un intervento più di raffinamento della situazione. E quindi insomma starete attenti e poi magari ne riparliamo fra qualche mese. Grazie a Davide Gallino della GCOM, all'avvocato Francesco Longo, per quello che siamo riusciti a sentire del Movimento Difesa del Cittadino. Salva Danaio torna domani, parleremo di consumi in vista del Natale. Buona giornata. We'll be right back.